Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. 8-18 minuti, caro Oscar, ci sei? Eccoci Alessandro, buon venerdì per te, fine settimana, per me non ancora, perché oggi pomeriggio e poi domani mattina. Comunque eccoci qua in questo 15 gennaio, santo del giorno? Ecco, appunto. Andiamo al santo del giorno. Oggi santo giorno che celebrano tutti è San Mauro, però è il giorno di una santa che è la protettrice di tutte le mogli cristiane. Tutte le mogli della cristianità oggi festeggiano la loro santa patrona, perché oggi è Santa Secondina. Sì. Santa Secondina, Vergine e Martire, però in realtà è la nostra patrona delle nostre amatissime mogli. Chissà cosa ne pensano le mogli. Fanno bene a sorvegliarci. È una battuta autoironica, perché tanto, anche se noi non facessimo nulla di particolarmente riprovevole, loro ci sorveglierebbero. Applicano la famosa tecnica cinese: vai a casa e picchia tuo marito, lui sa perché. Lui sa perché. No, comunque Santa Secondina non male. E poi c'è anche questo Sant'Arnoldo Jansen, che non è uno dei santi che di solito cito dei primissimi secoli, perché uno a cavallo tra 800 e 900, però mi appassiona perché ha fondato le serve dello Spirito Santo dell'adorazione perpetua. Già il solo fatto di concepire un nome, dello Spirito Santo dell'adorazione perpetua. Perché questo qua, insomma, le ha messe un po' a posto loro, le donne, cioè gli ha detto: dovete stare stese per terra l'adorazione, non voglio sentire un fiato. E allora loro reagite così. Allora, caro Oscar, vogliamo riallacciare un po' i fili di quello che è successo ieri. Abbiamo raccontato il 2 per 1000 ai partiti. Se volete chiamarci ancora su questo 800 24 00 24, tre italiani, anzi un po' meno di tre italiani su 100 danno soldi ai partiti, però c'è quell'ascoltatore che ci ha detto che a un CAF l'hanno obbligato a scrivere il nome di un partito a sua scelta. Ci ha riempito di curiosità, perché avremmo bisogno di più testimonianze di questo tipo. Se davvero eravate convinti che fosse obbligatorio scegliere, se a un CAF vi hanno detto dovete scegliere, se ve l'ha detto un commercialista, un amico, eccetera eccetera, perché questo naturalmente restituirebbe una giusta luce inquietante a questo dato. Anche perché io lo volevo collegare oggi a una notizia di cui abbiamo parlato prima della trasmissione, che ci ha colpito entrambi, cioè sul Corriere della Sera è Sergio Rizzo che scrive su questo fatto che la grande coalizione di chi rappresenta in maniera collusiva con la politica la Camera dei Deputati, i dipendenti, i dirigenti della Camera dei Deputati, è riuscita a strappare un altro privilegio nel fatto che in realtà i limiti ai loro premi, salari, eccetera, eccetera, valgono solo fino al 2017, poi dopodiché scrive liberi tutti. No, a meno che non intervengano con una nuova norma da qui al 2017, però non si capisce perché non farla in maniera definitiva. Appunto, perché tanto loro gutta cavat lapide. Allora io Oscar Giannino, dico, cari ascoltatori contribuenti, facciamo la stessa cosa pubblicamente, non c'entra niente con pubblicamente, iniziamo a dire, cari ascoltatori, che noi dal 2017 non li paghiamo, sospendiamo in maniera, facciamo il calcolo di che cosa loro si danno di più se riscattano, e quella cifra non la paghiamo, noi non lo paghiamo lo Stato per quella cifra. Cosa vuol dire non paghi le tasse per quella cifra? Tutti insieme, perché siamo stufi del fatto che ci sia gente che non ha retribuzioni basse. Come sai, da anni ce ne occupiamo. Stiamo parlando di una parte altissima della retribuzione pubblica che continua a strappare privilegi. Bene, voi mani libere, noi tasche più piene, perché i soldi non guarda, su questo ti appoggio, sono pronto anch'io dal 2017 a non pagare, pubblicamente. Quella, non la quota parte che è per questo. Esatto, la quota parte di quello che serve per dare più soldi ai dei 240.000 euro, che è il tetto massimo, non sono bazzecole, non sono noccioline. Non sono bazzecole, appunto. Iniziamo a identificare una serie di obiettivi pubblici, oltre i quali, per anche per ragioni di equità verso gli stessi dipendenti pubblici, noi ci autoscaliamo la quota, e poi più siamo più diventa bassa, però lo facciamo in pubblico. Sì. Ti faccio un altro esempio, eh. Sì. Roma, 60 indagati, la procura indaga, per le nomine al comune da Alemanno fino a Marino, e si tratta di milioni e milioni per questi 60 indagati, 12 milioni di euro non dovuti per le nomine per chi non aveva titolo al comune. Anche in quel caso iniziamo a fare un'identificazione di obiettivi per cui pubblicamente dire: noi vi avvisiamo, se continuate così quei soldi non ve li diamo. Non ve li diamo. Tra l'altro, no, lo racconta bene Sergio Rizzo, ricordiamo, cioè questo tetto da 240.000 euro per i dipendenti della Camera, ma hanno deciso che vale solo fino al 2017, fino a dicembre 2017. Poi se non fanno una nuova norma, tutto può tornare come prima. Tra l'altro Sergio Rizzo giustamente dice: ma così stabiliscono in maniera palese che esiste un'amministrazione pubblica di serie A, quella della Camera, del Parlamento, e di serie B, che è tutti gli altri 3 milioni di dipendenti pubblici. E del resto, purtroppo, un qualche fondamento giuridico ce l'hanno. Fino a che manterremo nell'ordinamento la facoltà per Camera, Senato, Corte dei Conti Costituzionale, cioè per gli organi di rango costituzionale, di non essere sottoposti al vaglio Corte dei Conti di certificazione dei loro conti pubblici, in realtà così è. Per questo c'è chi ne approfitta, cioè loro, e noi paghiamo, cioè noi. Tra l'altro, Oscar, via WhatsApp un messaggio arriva: a me è capitato, un ascoltatore, per l'8 per 1000 la Chiesa Cattolica, il CAF era l'ACLI in quel caso. Che gli diceva che era obbligatorio? Beh, evidentemente sì, questo dice almeno questo ascoltatore che ci scrive. Può capitare anche questo, comunque insomma. Tra l'altro, dimmi Oscar. No, io volevo collegarti, perché tu non hai, oggi io sono da Roma mentre Alessandro a Milano come sempre, e allora no, ti sfugge una cosa, la redazione romana di Repubblica, forse collegando alla notizia di Sergio Rizzo della Camera dei Deputati, preoccupatissima per uno sviluppo nuovo imprevisto che potrebbe avvenire alle elezioni dopo Marino, qua amministrative. E quindi ci sono due pagine con bellissime fotografie di questi simpatici nuovi protagonisti possibili della vita pubblica romana, perché il titolo è: a Roma superato il tetto dei 6 milioni di ratti, e ci sono delle belle ratti, e quindi ci sono queste, sì, e veniamo introdotti, perché sono tre tipi: ci sono i ratti delle fogne, ci sono i ratti neri della vegetazione, i topi domestici. Potrebbero addirittura forse presentare una lista, ed ecco perché Berlusconi pensa a Bertolaso per Roma, così acchiapperà i topi. Esatto, Berlusconi pare che pensi a Bertolaso, candidato a sindaco di Roma, tu dici per questo, per acchiappare i 6 milioni di ratti. No, i 6 milioni di ratti ci sono davvero. Lui è abituato a gestire l'emergenza, quindi. Però questi pezzi che ci sono su tutti i giornali, parlando più seriamente del fatto di questo Berlusconi in fuga, tutti i parlamentari che dopo l'incontro di martedì sera terrorizzati, dai, non mi fate perdere tempo che c'ho il Milan, e questo è una cosa, ma soprattutto dire a loro: importante. Vorrei essere alle Bermuda, ecco, che poi dico, ma chi glielo impedisce? Cioè, cosa glielo impedisce? Le aziende possono andare avanti, ci sono i figli, ci sono i dirigenti. In effetti, eccetera. Oggi come oggi è solo il salvi chi può. Ecco. Devo dire, con tanti anni di ritardo, adesso non c'entra. Cioè, a 80 anni può, se vuole, godersi buon ritiro alle Bermuda. Direi di sì. Vabbè. Senti, comunque ci chiama Giovanni da Bari, vediamo che ci vuol dire. Giovanni, buongiorno. Buongiorno a tutti e due. Niente, volevo dirvi che, se non ricordo bene, la legge è stata fatta in maniera tale che se anche solo il 2,7% ha deciso di a quali partiti donare il 2 per 1000, in realtà poi il restante 97,% lo dona lo stesso, cioè anche se tu non decidi di donarlo, lo doni lo stesso. Insomma, non è proprio così, perché dice... Come no? Sì, la normativa è stata fatta in maniera tale che chi vuole può donarlo ai partiti indicando i partiti, chi non vuole donarlo in ogni caso lo dona, cioè chi non sceglie a chi donare in ogni caso lo dona ai partiti. Ma no, allora alta. Cioè, l'attribuzione delle percentuali falsando su un monte definito di soldi, esattamente come l'8 per 1000, come ci dice il nostro ascoltatore, ma c'è un monte massimo, però, da 9.600.000 euro che vale. Esatto, non stiamo parlando invece come nel caso dell'8 per 1000, in cui il monte continua a salire e la ceda solo arriva a 8 miliardi. Però attenzione, caro Giovanni che ci telefoni, Non è quindi che, dato questo meccanismo, censurabile e criticabile, sia obbligatorio o indifferente esprimere o non esprimere una preferenza, perché chi dice mettete la X su un tale partito, come ovvio fa salire la quota su quel, di quel partito, dato il totale di coloro che la esprimeranno rispetto al massimo del fondo. Quindi attenzione, se la tua osservazione era per dire è meno grave la vostra obiezione a chi dice mettete la croce obbligatoriamente, no, è criticabile quello che dici tu, ma quello che diciamo noi è una classica violazione per indurre la gente a commettere un errore. E comunque, cioè, questo fondo credo sia, di ricordare, 9.600.000 euro. Questo è quello che viene distribuito ai partiti. Questo è il massimo che può essere distribuito, indipendentemente dalle scelte degli italiani. Quindi, appunto. 5 milioni sono andati al PD, metà, e 1 milione alla Lega, e poi scendere agli altri. Il resto della mia idea che siano troppe. E ieri sera Travaglio in televisione era ospite. Anche Travaglio ha detto: ma in realtà sono quelli che vivono di politica. Io dico: secondo me c'è anche tanta gente indotta in errore. Però. Però effettivamente c'è questa cosa. A me stupisce che uno viva di politica. Sappiamo di parlamentari che, ripeto, neanche versano la quota che devono al proprio partito. Se fanno una violazione così manifesta, figurati perché devono dare il 2 per 1000 dei propri introiti. La penso come te. Anzi, dicono: questi non mi pagano abbastanza. Figurati. Quindi figurarsi. Ci chiama anche Enrico da Milano. Buongiorno, Enrico. Sì, ciao, buongiorno. Chiamavo per la questione sul finanziamento del 2 per 1000 ai partiti. Sì, sì. Volevo anche confermarvi che anch'io l'anno scorso ho avuto la stessa esperienza. Lavoro in un'azienda che ci fornisce ai dipendenti l'assistenza per poter compilare l'F24. L'anno scorso, quando ho preso appuntamento con la persona, mi aveva indicato chiaramente che o sceglievo un partito nella lista, che era abbastanza piccola, non c'erano tutti i partiti, oppure in automatico sarebbe andato al partito, al governo. Quindi ero obbligato a scegliere o uno oppure darlo al governo. Cosa vuol dire automatico? Cioè, la compilavano loro al posto tuo? Questo vuol dire? Se non viene indicato nulla, in automatico va al PD. E così mi hanno detto. Al partito del governo, che peraltro c'è anche il nuovo centrodestra, allora, se vuole, al governo. Ma perché al PD? Ma io devo dire, ma Oscar, e non so, chiedo anche Enrico, ma non è che semplicemente è magari non dolo, ma ignoranza, banalmente, da parte di chi da parte di chi compila, dici? No. Guarda, se quelli fanno quello di mestiere e ci prendono soldi. Ho capito, ma cosa sono allora delle quinte colonne dei partiti che sono inserite? Sì, certo. Infatti, io vorrei, lo dico davvero, cari ascoltatori, adesso non è una battuta, perché noi stamattina siamo un po' ironici la mattina, però poi diciamo cose serie. Guardate che se contribuiamo, tutti ascoltatori che avete sperimentato questa esperienza, documentata ieri e oggi da alcuni di voi chiamandoci, se la documentiamo in pubblico, gettiamo una giustissima ombra su cui fare chiarezza da parte di qualche procura, che secondo me sarebbe un bene. Guarda, se questo Oscar è un fenomeno diffuso, io credo che bisogna invitare i nostri ascoltatori a dire: segnalatecelo con la vostra disponibilità, però a denunciarlo in pubblico, perché questo è un aspetto della vita democratica dei partiti da chiarire. Come senti un altro ascoltatore che ci scrive su WhatsApp: carissimi, in un CAF di Alpignano raccontavano ai contribuenti, in particolare anziani, che la mancata selezione del 2 per 1000 andava comunque ai partiti, tanto valeva selezionare il PD. Io gli ho mostrato dove appoggio l'ombrello in caso di maltempo. Promessa giusta, conclusione invece reato. Esatto. Vedi. Esatto. Alpignano, provincia di Torino, tra l'altro. Ci tieni a sottolinearlo, giustamente. No, ci tengo a sottolinearlo perché tantissimi anni fa, insieme a mio fratello e come a mio padre, io e mio fratello abbiamo rimesso a posto l'archivio comunale, perché lui si occupava di queste cose, e quindi me lo ricordo perfettamente, Alpignano. In ogni caso, però queste cose, ascoltatori, denunciatecele, continuate a dircene, chiamateci e noi raccoglieremo le testimonianze di tutti voi, sono testimonianze pubbliche. Oscar, vogliamo dare gli Oscar, perché anche noi parleremo oggi di attualità internazionale, i timori, l'ISIS, i timori, le minacce all'Italia, però l'Oscar, dai, torniamo con gli Oscar. And the Oscar goes to... Io vorrei dare un Oscar negativo, l'Oscar della, se si può dire, testa di minchiaggine. Sì, lo racconta la stampa, a un cretino che a Favignana ha preso a fucilate un cane. Sai quel cane che sì, quando è morto il padrone è andato addirittura a lamentarsi e a accompagnare il padrone al funerale in chiesa? E si vede che questo cane, siccome si lamentava, guaiva sempre perché gli mancava il padrone, qualcuno ha pensato bene di prenderlo a 3 fucilate a Favignana. Ma è stato salvato questo cane, ce la farà. E oggi lo racconta la stampa. Devo dire che mi associo, perché è una roba che dà l'idea di come gli esseri umani a volte siano del tutto inferiori alla capacità degli animali di esprimerci, ma da loro, ma in maniera inequivocabile, affetto e amore. Quindi sono molto d'accordo. Lo racconta la stampa con Laura Anello. Io invece faccio una segnalazione amara, questa volta su Repubblica. Siamo stati condannati, Repubblica ne dà conto, come altri giornali, però Repubblica con più giusta enfasi secondo me. Siamo stati condannati dalla Corte Europea dei Diritti Umani e ci sono 371 cittadini italiani, in realtà sono i più, questi sono i ricorrenti riconosciuti, che hanno contratto l'epatite C grazie al fatto che nella sanità pubblica anni e anni fa giravano sacchi di sangue infetto. Ecco, allora io questo, ricordiamoci che poi restiamo un paese capace anche di cose simili e il giornalismo dovrebbe continuare a documentarle senza avere paura di chi dice che poi criticare le cose pubbliche che non funzionano significa essere nemici dell'Italia, gufi eccetera eccetera, perché c'è gente che ha avuto la vita rovinata per queste cose qua. È vero, è sacrosanto. Allora, dopo un attimo di pubblicità, noi ci concentreremo con Lorenzo Cremonesi del Corriere della Sera, Pietro Batacchi che è direttore della rivista italiana di difesa, a queste minacce soprattutto in Libia. Oh, ma Oscar, cioè sono a poche miglia da noi, non è che si può scherzare tanto. No, non si può scherzare, anche perché le minacce arrivano dirette all'Italia. Tra poco, state con noi. Vedi, caro Oscar, che anche un altro ascoltatore ci scrive: guardate che molto spesso i dipendenti del CAF, ce lo scrive lui, sono persone che lavorano 3 mesi all'anno, chi vale qualcosa trova altri lavori e loro sono senza esperienza e cultura e dicono e fanno cose che non capiscono. Insomma, di fronte alla legge, se danno indicazioni come quelle che stiamo raccogliendo, la valutazione del loro reato eleverà le attenuanti, perché svolgono un ruolo di fiducia pubblica riconosciuto dall'ordinamento italiano, i CAF. Sì. E quindi va bene essere l'ignoranza, ma come dice il vecchio Brocardo, nemo censetur, ignorare legem, cioè loro in particolare non potrebbero invocare l'ignoranza come attenuante del reato. Ah no, questo sicuramente era per dire che molto spesso non è dolo, ma proprio mettono lì persone. Ho un dubbio, perché sai. Comunque voi continuate a segnalarci se c'è qualcosa che non va sull'8 per 1000, sul 2 per 1000 e noi lo testimonieremo grazie a voi. Oh, però vogliamo parlare un po' di quello che sta succedendo. Io ho capito così, soprattutto in Libia, c'è un generale italiano che è stato nominato consigliere militare dell'inviato speciale in Libia. E questo generale italiano è stato preso a pretesto, no, Oscar, da Al-Qaeda per dire: vedete, siete i nipotini del generale Graziani di ben altri tempi e continuate a voler occupare la Libia, per questo pagherete, cari italiani. Questo è il messaggio che è stato diffuso ieri. Però insomma, cosa sta succedendo in Libia? Ne vogliamo parlare con Pietro Batacchi, che è direttore della rivista italiana di difesa. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Così come Lorenzo Cremonesi, che ha inviato il Corriere della Sera, che si trova a Istanbul però in questo momento, giusto Lorenzo? A Istanbul per l'attentato dell'altro giorno. Eccoci. Buongiorno. Buongiorno. Allora, non so, Cremonesi, quanto può essere attendibile questa minaccia? Ne arrivano tante ovviamente, però adesso la Libia è proprio il fronte a cui fare maggiore attenzione? Sì, allora, premesso che la minaccia jihadista è forte, l'Italia è il potere, la potenza occidentale che tradizionalmente è presente in Libia, è più interessata, ha l'attività petrolifera più grossa, più rilevante, e quindi è ovvio che questi gruppi sono per noi un pericolo ed è quasi scontato, banale, che utilizzeranno tutta la vecchia retorica ancora di Gheddafi e stava attorno per accusarci di essere il vecchio regime coloniale che ha delle mire, che vuole controllare eccetera eccetera, quindi tutto quello che è apparso da questo comunicato di Al-Qaeda mi sembra banale, scontato e attendibile. Anzi, è strano che arrivi solo ora. Sì. Ma non è anche una specie di... Questo, ecco, solo per finire questo sì, certo. ragionamento. Detto questo, mi sembra che in questo momento Al-Qaeda sia un movimento in evidentissima crisi. In Libia non ha mai avuto un vero ruolo, semmai la nostra preoccupazione, come abbiamo detto, scritto negli ultimi mesi, è ISIS, Daesh, come dir si vuole, è il califfato che sta crescendo e che si è manifestato con la bomba del 7-8 gennaio a Tlemcen contro la polizia e che sta prendendo i posti petroliferi. Questo è il nostro, maggior problema. Quindi mi sembra che in questo momento ci sia un po' una guerra di brand. Al-Qaeda in crisi, questo è molto comodo, vuole farsi presente in Libia, in Libia chiunque può andare e quindi lancia questo comunicato. Beh, Cremonesi mi ha risposto, perché ti ringrazio, perché io chiedevo se non fosse una specie appunto di guerra per farsi vedere, perché questo Al-Anabi di Al-Qaeda nel Maghreb rispetto all'ISIS mi sembra appunto alla ricerca di attirare l'attenzione. Però quello che volevo chiedere a Battacchi è, nel frattempo voi documentate che il califfato, l'ISIS, Daesh, appunto, come dir si voglia, in Libia sta espandendosi molto più di quanto non si creda. Cioè, mentre tutti continuano a dire ISIS è in Sirte, eccetera, voi documentate, guardate, non solo nella zona dei pozzi, ma verso sud oramai ha un collegamento diretto con i traffici di ogni tipo, esseri umani, armi, eccetera, eccetera, direttamente con la zona Sahel e sahariana, perché è arrivato anche ai confini meridionali. Quanto è seria e spessa, Battacchi, questa espansione dell'ISIS fuori dagli obiettivi e dalle attenzioni pubbliche occidentali? Nelle scorse settimane, nei scorsi giorni, noi ne parlavamo anche sia sulla rivista che sul sito, sul nostro website, di questa, diciamo, espansione di ISIS non solo verso i pozzi petroliferi della cosiddetta mezzaluna di Sirte, ma soprattutto verso il sud, verso quel Fezzan, che è terra più o meno di nessuno, ricca di traffici, di crocevia di vario genere, che comunque consentirebbero ad ISIS, allo Stato Islamico, di trovare nuove fonti di finanziamento, di ricchezza e così via. La ricognizione francese, che è in corso in Libia ormai dal 14 novembre 2015, sappiamo tutti cosa è successo il 13 novembre, ha confermato questa espansione di ISIS verso il sud, verso il Fezzan. C'è un elemento però da tenere in considerazione: ancora non si tratta di una penetrazione, potremmo così dire, strategica, siamo, diciamo, ai primi abboccamenti, però si segnalano in quest'area già alcuni campi d'addestramento per formare miliziani africani, soprattutto di Boko Haram, che è la diramazione di ISIS nell'Africa occidentale. Appunto, la ricognizione francese ha confermato questa realtà. Un ostacolo eventuale all'espansione ISIS in quest'area potrebbe essere quello della tenuta effettiva dell'accordo di pace negoziato a Doha a fine 2015 tra il Tebu e i Tuareg, che in qualche misura potrebbe contenere l'espansione di ISIS. Se questo accordo non tiene, ISIS a via libera nel Fezzan, la situazione sta molto dura. Non solo molto dura, qui bisogna capire anche quanto quello che sta succedendo, cioè il processo di pace in Libia, quanto sia concreto, perché Oscar, abbiamo raccontato anche 2 giorni fa, di quando sul Messaggero si parlava di un Renzi molto preoccupato, no? Quando ha radunato i servizi segreti, i ministri, il ministro degli esteri, il ministro della difesa. Si parla di processo di pacificazione, di governo di unità nazionale in Libia. In realtà la parola associata a Libia è caos. Allora, è caos totale. Esatto. A me devo dire la verità. Quale delle due è la verità? Perché io chiedo a entrambi i nostri ospiti, Cremonesi e Battacchi, una risposta secca, per così dire, in 20 secondi a testa. Perché ieri sera, sentendo il ministro Gentiloni, dalla famiglia dove esamo, il ministro Gentiloni continua a frenare moltissimo su ogni ipotesi di intervento militare, e mi è sembrato molto prudente anche nel valutare lo stato di tenuta reale di ogni accordo attuale tra i fronti libici. Ma condividete questa impressione? Se è così, in realtà è campo vasto per l'espansione e il rafforzamento di ISIS. Che dice Cremonesi e Battacchi? Cremonesi. È gravissimo. Questo governo non è assolutamente in grado di tenere. è un governo finto. Se c'è qualcosa di vero nel comunicato di Al-Qaeda è proprio l'artificialità di questo governo, più una risposta delle pressioni che arrivano da ben prima dell'attuale inviato dell'ONU di Martin Kobler, ma ancora con il precedente, con Bernardino Leon, che per un anno qua ha cercato di creare l'unità nazionale, non c'è riuscito e ancora adesso non ci sono riusciti. I due fronti, Tobruk e Tripoli, i due governi, sono al loro interno divisi. Molto spesso chi ha firmato questo accordo rappresenta soltanto se stesso, e più diversi intellettuali, ma tra cui tra l'altro lo stesso nostro Romano Prodi, hanno detto, secondo me molto giustamente, che il problema sono le tribù, che questi governi non riescono a captare, a catturare la simpatia e il sostegno delle stesse tribù che operano nel loro territorio, che poi diventano le loro milizie. Sono solo alcune componenti che sono in guerra tra di loro. Quindi non abbiamo soltanto due fronti contrapposti, cioè Tobruk contro Tripoli, per dirlo in modo molto semplicistico, ma al loro interno questi sono divisi. E questo, insomma, una tenuta di governo nulla, mi sembra di poter dire. Cioè, lunga vita all'ISIS, Batacchi, lunga vita all'ISIS, questo è quello che vedo, o no? Parlare dopo Lorenzo Cremonesi non è mai lo so. Non sarebbe nulla da dire, soltanto. Lui ha citato, a mio avviso, il problema fondamentale, che è quello delle tribù. Guardare alla Libia con la lente dei due governi, ovvero quello di Tobruk e di Tripoli, è un approccio che non può tenere, perché il soggetto principale della vita politica sociale in Libia è la tribù. Qui si parla di circa 150 tribù diverse. La Libia è il paese più tribalizzato di tutto il Medio Oriente. Lo stesso governo, regime di Gheddafi, non poteva essere considerato uno Stato normale come lo intendiamo noi, ma semplicemente una sorta di clan al potere che governava con una serie di accordi con alcune tribù. Ecco, per cui il ruolo delle tribù è fondamentale in Libia. Ne dovremmo coinvolgere almeno quelle principali, almeno una decina, dalla Guarfalla, in Magarica e così via. Per tornare a ISIS, uno dei motivi della crescita di ISIS negli ultimi mesi è proprio il fatto che i giovani della tribù Kadhafa, che è la tribù dei Gheddafi, si stanno arruolando in massa, senza prospettive, si stanno nell'ISIS, e questo inquieta. Non so se, spostando la questione sulla Turchia, avevo una curiosità, una domanda sulla quale magari Lorenzo Cremonesi, visto che è Istanbul, ci può aiutare. Tre giorni fa abbiamo scoperto che l'ISIS si è infiltrato con questo attentato a Istanbul, così almeno dicono le autorità turche, che poi hanno parlato di coinvolgimento russo. Sappiamo che c'è stato l'abbattimento dei turchi del MiG russo, e quindi, ecco, capire quale sia la verità forse non è facile, però Lorenzo aiutaci a capire allora se dobbiamo pensare che ISIS può colpire in Turchia, o se addirittura dobbiamo pensare a un disegno della Russia dietro a questo attentato di Istanbul. No, senz'altro Mosca gioisce, visto il tono delle polemiche di quasi guerra aperta tra Putin e Erdogan. Ma no, allora, la Russia certamente non c'entra niente. Direi che la pista ISIS è una pista legittima, e per il governo Erdogan ammetterlo è una sorta di autogol, lo dice a denti stretti. Sembra evidente che questo sia un attentato di ISIS, proprio per il modo in cui è avvenuto, per le modalità. È un attentatore suicida, e quindi questo è tipico di ISIS, o tipico del PKK, dei curdi o dell'estrema sinistra che ogni tanto compie attentati qua. Quindi non è parte di una dinamica della violenza della politica interna turca, arriva da ISIS, è un attentato jihadista, e oltretutto ha attaccato turisti occidentali, quindi degli stranieri, e quindi ancora nella logica di Sharm el-Sheikh, nella logica degli attentati contro gli occidentali, contro i turisti, e non solo loro, in tutto il Medio Oriente. Quindi direi che la pista di ISIS è abbastanza scontata, ci hanno dato anche il nome dell'attentatore, molto precisi, con delle circostanze che direi sono credibili. Va bene. Un giovane saudita, eccetera. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che la Turchia, che fino a pochi, non da ora, ma comunque fino a un 6 o 7 mesi fa, mezzo anno fa, era vista come non il padrino, non l'alleato, ma acquiescente, passivo. Ah, insomma, tutte le vie, per molte dei foreign fighters passavano di là, lì c'erano le tappe, quindi come no, quindi lo era. Adesso speriamo che attutisca questo suo ruolo. Di fatto i rights dei russi hanno iniziato a favorire anche sul campo più le forze curde di quanto non apparisse, di quanto non avvenisse prima. E anche questo è un effetto di tensione con la Turchia, un effetto benedetto per quello che mi riguarda. Tra l'altro, però, Oscar, nel ringraziare Lorenzo Cremonesi, inviato del Corriere, e Pietro Batacchi, direttore di Rivista Italiana di Difesa, continua ad arrivare messaggi mai visto sui CAF. Adesso diamo spazio anche ai due ascoltatori, però ti leggo via SMS: il mio commercialista ha la Hollus del cognato che prende sempre i soldi 8 per 1000. Questo ci scrive. Vabbè, il commercialista che orienta. E orienta, capisci? Però l'essenziale è capirlo, perché i nostri ascoltatori dobbiamo dire: state attenti su questo, a capire bene le coordinate di chi vi dà i consigli. Enrico da Milano invece dice: ci sarà anche malafede, ma confermo aver spesso constatato incompetenza più che altro nei CAF. Però ci sono anche gente invece che dice: io senza i CAF non riuscirei a fare nulla, e devo dire che li ringrazio. Capisco. Esatto, certo. Però Vincenzo ci chiama da Palermo. Buongiorno, Vincenzo. Sì, pronto. Eccoci. Salve. Niente, volevo sottolineare proprio a proposito dei CAF, che io non sopporto completamente, perché sono diventati una lobby dove cercano di canalizzare qualsiasi cosa da fare nei confronti dell'INPS o delle pubbliche amministrazioni, affinché uno sia costretto ad andare da loro, perché sono diventati una lobby di delinquenti. No, beh, adesso lo dico io, non ci sono problemi, perché io ieri sera non stavo sulla pelle, in quanto un famoso commentatore della 7 di 8 e mezzo, no? Diceva che i partiti hanno ricevuto il 2 per 1000, e guarda caso il PD è quello che ha ricevuto maggiormente. Nel commentare il tutto diceva che c'era un ritorno nella fiducia dei partiti. Col cavolo c'era un ritorno alla fiducia dei partiti? Questi delinquenti di qua fanno filmare a noi rincoglioniti anziani le dichiarazioni di redditi. Non ci dicono niente, è un po' come quando si filmano i moduli alla Banca Eturia e in tutti questi Bravo Vincenzo! Sono lo stesso sistema! Bravo Vincenzo! Va bene, lei dice quindi, però si è dato anche del rincoglionito, nel senso, capisci, Oscar? Ma Vincenzo lo dice autoreferenzialmente, ma fino a un certo punto. E io apprezzo molto l'accostamento tra le centinaia di migliaia, anzi milioni, di clienti bancari italiani invitati a sottoscrivere, che non per questo erano ma le hanno sottoscritti titoli monnezza emessi dalle stesse banche in conflitto di interesse, con quelli che si fidano di quello che dicono i CAF, senza capire che anche lì c'è un conflitto di interesse nell'allineamento. Quindi, Vincenzo, dal punto di vista economico, la simmetria dell'informazione è pazzeccato, è l'esempio in cui stiamo parlando di quella roba là. Allora, da Varese invece ci chiama Roberto. Buongiorno Roberto, eccoci. È caduta la linea. È intervenuto un partito che con le forbici ha tagliato tutto. Certo, comunque Alessandro, tra la Fiat accusata di truccare in America, Fiat Class, i numero delle loro cifre, dall'altra la Renault con la polizia che arriva e tutto crolla. Ce l'avamo tutti a prendersela solo contro Volkswagen, giustissimo, affrodato. Però come si vede non è che fosse una compagnia di santi, quella degli altri concorrenti. Temo, cari clienti delle automobili italiane. Queste almeno sono le accuse. Roberto Lavarese l'abbiamo recuperato? No, allora niente, caro Oscar, ci dobbiamo fermare qui. Che dobbiamo fare? Noi invitiamo, sai che uno ha scritto: propongo subito il taglio. Non il taglio, di accettare la proposta di Oscar Giannino. Non paghiamo il 5% di tasse per abbassare la spesa pubblica. Coltiviamo questa proposta al punto da fare una cosa pubblica. Mi raccomando, non deve avere niente a che fare con ogni possibile, anche ombra lontana, di evasione. Queste sono cose che si dicono pubblicamente, in presenza però. E sarebbe troppo comodo dire: se le tasse sono troppo elevate ce le scaliamo da sole. No, in presenza di casi eclatanti come quello della Camera dei Deputati o di assunzioni di mega dirigenti illegali, allora pubbliche, a quel punto lo dichiariamo e iniziamo a vediamo se loro vanno avanti. Proprio, che dici? Lo facciamo come dire legato a progetti, a progetti specifici. Certo. Come insomma Gandhi aveva un progetto, l'indipendenza, iniziò per questo a farsi sale, vinse lui, non vorrei dire ma. Allora, noi ringraziando Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli e Peter Bescapè in regia, ci rinnoviamo a lunedì per quel che mi riguarda, caro Oscar. Tu oggi io alle 4 saluto e mezza. Anche i 6 milioni milioni di ratti. Scegliete bene il vostro candidato per Roma, maledizione. Potreste vincere il partito dei ratti. Sono in maggioranza rispetto agli altri. Forse hanno anche le idee più chiare, perché loro lo dichiarano apertamente che vogliono rosicchiare, non come si vede i partiti che dicono che non lo fanno. Dai, battutaccia finale. Buon fine settimana. Però con me appuntamento alle 4:30 oggi pomeriggio e anche domani mattina dalle 10 alle 12. Ciao, a lunedì.